Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Ed eccoci qua, torniamo in diretta qui su Onda Libera con Agorà in onda. Io non faccio altro che passare nuovamente la parola dall'altra parte dello studio con i nostri interlocutori. Oggi qui a Agorà in onda parliamo di bullismo e cyberbullismo. Prego. Sì, Stefano, oggi abbiamo la possibilità di ascoltare la voce del capitano dei Carabinieri di Palestina, dottoressa Maria Grazia Centrone, che ci sta rapportando la sua esperienza concreta nel campo di questo particolare fenomeno sociale che abbiamo chiamato, che si chiama bullismo e che nella parte cyber diventa diciamo disciplinato dalla legge come fenomeno del cyberbullismo. E ci sta raccontando, ci ha raccontato nella prima parte, nell'introduzione di questa puntata, quali sono le caratteristiche, le fattispecie che possono riguardare il bullismo, e in particolare ci ha segnalato la possibilità, ecco, vorrei che il capitano ricordasse quindi agli ascoltatori come attraverso il numero verde possono essere fatte delle segnalazioni anche anonime da parte di genitori, insegnanti, gli stessi minori, che possono far conoscere alle forze dell'ordine comportamenti e vessazioni che le vittime di bullismo, cyberbullismo possono essere vittime, e che quindi possono segnalare alle istituzioni competenti. Quindi, capitano, se ricominciamo da questo numero, così illustriamo nuovamente il tema. Sì, il numero verde a cui rivolgersi è l'800 669696, è un numero verde appunto, quindi gratuito, operativo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, dal lunedì al venerdì, e serve appunto per segnalare casi anche in forma anonima, quindi anche i ragazzi stessi possono, ecco, fare delle segnalazioni, chiedere informazioni sul fenomeno, chiedere informazioni su come comportarsi in situazioni critiche, spesso perché magari i cittadini sono un po' impauriti da recarsi in caserma, c'è qualcuno che guarda un po' con occhio di timore, ecco, l'andare dei carabinieri, perché pensa di ingrandire troppo una cosa che poi potrebbe essere una stupidaggine. Invece bisogna sempre valutare con la giusta attenzione anche i segnali e i piccoli casi, quindi questo è l'invito caloroso che facciamo a tutti gli ascoltatori. Ed inoltre c'è anche un altro servizio telefonico che è stato istituito dal Ministero dell'Interno per rendere appunto più efficace l'azione di contrasto delle forze dell'ordine. Dal 2014 i cittadini possono rivolgersi anche inviando un SMS al 43002 al 43006 per segnalare episodi verificatisi nelle aree adiacenti o all'interno dei plessi scolastici. Quindi anche questo numero è importante per segnalare questi casi di bullismo, oltre a tutta una serie di app che ormai esistono per segnalare casi, e app anche per i genitori per controllare i figli, ma poi penso che questo sia un argomento successivo. Esatto, e quindi esistono degli strumenti tecnologici in grado di far monitorare i genitori, gli stessi che possono vigilare anche sul comportamento del figlio, e che quindi possono, se hanno problemi, timori, dubbi, rivolgersi ai numeri che il capitano ci ha fornito in precedenza, senza avere il timore di doversi esporre in maniera personale, ma avendo potendo utilizzare gli strumenti che le istituzioni attraverso questo circuito può mettere a disposizione degli stessi genitori, che sono i primi a dover in qualche modo accorgersi del comportamento sta assumendo il figlio, se qualche vessazione sta subendo da parte di compagni o di altre persone. Quindi, diciamo, questo è un primo campanello d'allarme, un primo strumento che i genitori hanno a disposizione. Come attraverso l'attività di prevenzione che ricordava il capitano, i carabinieri, la compagnia dei carabinieri, in questo caso di Palestrina, sta facendo a tappeto su tutti i 13 i comuni fanno parte della compagnia, e quindi mettere a disposizione le informazioni necessarie a studenti, insegnanti, genitori per poter fare questa attività di prevenzione, per cui è un tema molto importante. Ne parlavamo anche l'altra volta nella puntata precedente, come le istituzioni debbono essere al servizio dei cittadini e come è possibile contrastare un fenomeno attraverso la prevenzione. Quindi le chiedo allora, a questo punto, entrando nello specifico, se all'interno del territorio della compagnia di Palestrina avete trattato diversi o molti casi di bullismo e cyberbullismo per far capire agli ascoltatori del nostro territorio che effettivamente il fenomeno non è soltanto un fenomeno che vediamo in televisione, ma che poi esiste anche concretamente all'interno delle nostre scuole, delle nostre comunità, e da questo punto di vista il ruolo appunto delle forze dell'ordine concretamente a servizio proprio della tutela delle famiglie e dei minori. Sì, per quanto riguarda il mio territorio e il territorio della Compagnia di Palestrina, per fortuna non abbiamo avuto nessun caso grave fino adesso di bullismo o cyberbullismo, o meglio, i primi accenni di casi o situazioni sospette li abbiamo subito, per così dire, aggredite facendo delle campagne, come ho detto prima, di sensibilizzazione e prevenzione, e devo dire che hanno funzionato molto bene. Per fare un caso pratico, anche proprio la settimana scorsa abbiamo avuto in una scuola media di un paese della nostra giurisdizione, appunto, ecco, non tanto un caso di bullismo, però magari ci troviamo in tema di internet, di moderne tecnologie, per cui forse vale la pena accennarlo agli ascoltatori. Abbiamo avuto un fenomeno, un caso sospetto, ecco, del noto fenomeno del blue whale, che girava nei gruppi di alcuni bambini delle scuole medie. Ci siamo praticamente fiondati. Ecco, le chiedo di far conoscere che cos'è questo fenomeno del blue whale, in modo tale da fare chiarezza su questo punto. Ok, il fenomeno del blue whale è praticamente una pratica che sembrerebbe provenire dalla Russia, e praticamente viene proposta come una sfida in cui un curatore può manipolare la volontà e suggestionare i ragazzi sino a indurli appunto al suicidio, per cui noi in questi casi procediamo per istigazione al suicidio come tipo di reato. È un qualcosa che si trova anche su internet. Esistono 50 regole che i bambini devono seguire, i ragazzi devono seguire, per e porta come prova finale quella, ecco, del suicidio, quindi c'è un esito spiacevole e una sorta di sfida che può portare a questo esito. A questo esito. Di solito i ragazzi che lo fanno sono comunque ragazzi che hanno problemi, che magari hanno problemi in famiglia o sono depressi, che cercano appunto in rete un curatore che li porti a fare questo percorso. Ora, nel caso specifico, dicevo prima, che abbiamo affrontato, più che altro ci sono ancora certamente indagini in corso, è una cosa molto seria, per cui si è diffusa questa sorta di moda tra i bambini, per essendo appunto che alcuni magari non hanno la capacità di discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, siamo andati lì alla scuola il giorno successivo quasi a spaventarli, mi permetto di dirli, per farli capire come usare in modo intelligente internet e cosa lasciare assolutamente stare per non incorrere in conseguenze negative e anche in conseguenze, diciamo così, negative e penali per i propri genitori, anche perché poi i genitori hanno il compito di vigilare, anche se oggigiorno è una cosa molto difficile, sui ragazzi e sui figli. E per far capire una cosa, scusate se mi intrometto, ai genitori soprattutto questa della blue whale, che è iniziato tra le altre cose questo fenomeno in TV, poi dalla TV è stato praticamente trasportato sui social, nei social è cresciuto e si è moltiplicato sulle chat, e lì perciò bisogna mettere in guardia i genitori non solo dal computer, da internet, ma anche da quello che vedono in televisione, perché ci sono purtroppo dei programmi che vengono prodotti da alcune TV non neanche tanto autorizzate a fare queste cose, a far vedere queste cose, appunto. Poi se capita il ragazzino che ha qualche problema di personalità o qualche problema familiare, ecco che la cosa complica la vita a chiunque va a contatto con questi personaggi. Però ci sono stati già parecchie persone che sono state arrestate, no, per questo fatto, già su internet sono stati individuati, e non bisogna mai fermarsi, perché questa è, come ha detto lei prima giustamente, anche il piccolo segnale, quello è importante, perché poi da lì parte tutto, perché sembra piccolo ma in realtà è grandissimo. Ma diverse sono le condotte che si stanno diffondendo anche attraverso l'utilizzo dei social, che possono essere proprio uno strumento di contaminazione per fenomeni come questi, anche degenerativi, che possono portare poi a condotte, in questo caso al suicidio, ma in altre forme diverse, che possono comportare comunque dei rischi per non soltanto la salute fisica ma anche la salute psichica del ragazzo, dei ragazzi, anche in età avanzata. Anche il caso di cronaca che abbiamo sentito, sia per quanto riguarda la chiusura del blog sull'anoressia, dove ovviamente attraverso l'utilizzo dei social venivano istigate delle condotte particolarmente negative per le conseguenze sulla salute, dagli stessi membri che appartenevano alla comunità di WhatsApp, per segnalare, appunto, diciamo, spingere le persone ad adottare una condotta che in qualche modo potesse avere delle conseguenze negative sulla salute. Dall'altro lato, ovviamente, anche la vittima che abbiamo ascoltato nei media la scorsa settimana, della ragazza ovviamente che è stata spinta al suicidio, probabilmente attraverso la diffusione di un video che la poteva riguardare personalmente. Quindi queste condotte partono, diciamo, con gli strumenti social in giovane età, ma poi possono portare conseguenze anche quando si raggiunge la maggiore età, per cui è un fenomeno che va contrastato sul nascere. Quindi sono contento che il capitano ci abbia detto della sua esperienza, proprio di cercare di reprimere anche a cattivo muso alcune iniziative direttamente sul nascere, proprio perché sono condotte che possono poi portare, se non controllate, a fenomeni molto più complessi, i cui effetti si vedono non nel breve periodo ma soprattutto nel lungo. Di conseguenza proprio l'attività di vigilanza, che non è soltanto repressione ma anche informazione, è comunque importante, e va dato atto alle istituzioni che operano sul campo di essere veramente puntuali al servizio dei cittadini. E quindi come dicevamo, lei ci ha fatto già una panoramica rispetto a quello che è l'attività informativa, e quindi anche qual è il ruolo di Confidente della parte, quindi come possono essere le famiglie aiutate in questo, quindi quali consigli, come possono chiedere ausilio alle forze dell'ordine, l'abbiamo detto attraverso il numero verde, ma come poi possono rapportarsi direttamente con voi quando il fenomeno prende una piega molto più complesso, quindi come materialmente poi avvengono, diciamo, le attività non soltanto investigative ma anche di attenzione nei confronti delle famiglie per il fenomeno segnalato. Sì, diciamo che è necessario veramente educare e sensibilizzare i ragazzi, lo dobbiamo fare noi come operatori sociali, forze di polizia, operatori sociali, insegnanti, genitori. È importante segnalare da parte di tutti, anche dei ragazzi stessi, dei compagni di scuola, magari di altri bambini che sono vittime di bullismo, di cyberbullismo, altri bambini che capiscono la gravità del fatto, devono anche loro stessi segnalare la cosa agli insegnanti o ai genitori. Le segnalazioni devono avvenire quindi da tutti questi operatori sociali, dai ragazzi, e i genitori in particolare devono stare attenti, perché il cyberbullismo è un fenomeno che ormai sta prendendo sta diventando sempre più vasto, quindi i genitori devono controllare ciò che fanno i figli su questi social, ciò che scrivono, con chi si scrivono, perché internet è pieno di insidie, e nonostante i benefici delle moderne tecnologie, è veramente necessario stare attenti a non cadere in brutte situazioni. E i genitori che concretamente vengono in caserma e vengono a denunciare o che ci segnalano questi casi, poi si devono completamente fidare di noi, ci devono affidare le indagini, noi ci rapportiamo con l'autorità giudiziaria e incominciamo un percorso investigativo per tutelare e per stoppare appunto queste situazioni, questi fenomeni. Esiste anche a livello scolastico, poi esistono dei regolamenti disciplinari con il quale si affrontano questioni legate al bullismo e si prevedono delle procedure sanzionatorie, quindi se un bambino ragazzo viene indicato come, come bullo, e si prova appunto che questo ragazzo tiene delle condotte prevaricatorie nei confronti di un altro ragazzo un po' più debole per vari motivi, è possibile anche allontanare lo studente dalla comunità scolastica e per un periodo non superiore a 15 giorni, ma questo limite può essere anche più largo in caso di ipotesi gravi di infrazioni gravi, come sono appunto quelle legate al bullismo appunto. Per cui il consiglio vivo che do a tutti i nostri ascoltatori è veramente di fidarsi di noi e di cercare di segnalarci anche le più piccole cose, perché è meglio prevenire che curare, e stroncare sul nascere determinate situazioni è fondamentale. Noi siamo veramente disponibili per aiutarli in questo difficile compito di controllo nei confronti dei figli, che mi rendo conto oggigiorno è veramente difficile, scusate la ripetizione del termine. Sicuramente sono tante le possibilità che hanno i ragazzi oggi di condividere sia esperienze positive, ma purtroppo come possono essere condivise esperienze positive, possono essere in questo caso condivise invece esperienze purtroppo del tutto negative, e di conseguenza la vigilanza, come ricordava lei, è sicuramente una cosa importante che i genitori, ma anche in questo caso la scuola, perché anche la scuola ha un ruolo ben preciso, ricordavamo nella scorsa puntata proprio il ruolo che la legge sul cyberbullismo attribuisce alla scuola in funzione di prevenzione, attraverso anche la figura di un responsabile proprio per ogni singolo istituto che possa prevenire con fenomeni diciamo legati al cyberbullismo. Ovviamente, come dicevamo, la legge disciplina il cyberbullismo, però è altrettanto vero che comportamenti di prevaricazione, che possono essere fisici, relazionali, verbali, possono essere controllati anche, diciamo, a vista, non soltanto nel fenomeno social, ma anche nel fenomeno quotidiano di relazione all'interno di una piccola comunità, come può essere la scuola, un'associazione, un contesto comunitario nelle nostre città, nei nostri paesi. Quindi da questo punto di vista un controllo diffuso potrebbe essere, diciamo, un motivo per prevenire, diciamo, che ci siano delle condotte da parte dei soggetti più forti a danno invece di ragazzi o ragazze più deboli, perché poi il fenomeno del bullismo è un fenomeno che cambia, può essere declinato al maschile o al femminile, certo, con delle condotte diverse a seconda, diciamo, del cerchio nel quale si verifica questo fenomeno. Ecco, diciamo, anche il fenomeno femminile, attraverso una forma di prevaricazione diversa, che non è soltanto fisica ma relazionale, è un'altra delle attenzioni sulle quali bisogna mettere l'accento, perché siamo abituati a pensare il bullismo come una condotta fisica, ma non è soltanto fisica, può essere relazionale e verbale, ed indurre nei confronti della vittima delle ripercussioni a livello anche psicologico, che possono portare delle destabilizzazioni. Ed è per questo che il compito delle istituzioni, dai genitori alla scuola, in questo caso anche alle forze dell'ordine, è importante nell'attività di prevenzione. Quindi lei già in parte ci ha accennato quali possono essere diciamo le condotte che possono tenere, cioè le quali le famiglie possono avvicinare le forze dell'ordine per segnalare questo fenomeno, ma anche proprio dalla sua viva esperienza. Allora, concretamente, quali suggerimenti lei si sente di dare in qualità di capitano dei carabinieri alle famiglie, alle vittime di bullismo, cyberbullismo, proprio per chiudere questa puntata e lasciare, diciamo, un messaggio concreto ai nostri ascoltatori? Sì, il messaggio è quello di fidarsi di noi, fidarsi delle forze di polizia, venire in caserma anche solo per chiedere un consiglio, un'informazione, e suggerirci appunto di segnalarci quei casi, in modo da indirizzarci in quegli ambiti scolastici magari un po' che sono più interessati al fenomeno, in modo che noi abbiamo anche possiamo avere anche un'idea di dove andare a insistere di più per cercare di stroncare il fenomeno sul nascere, come ho già detto prima. Le famiglie devono controllare i propri figli, gli insegnanti, i direttori, i presidi degli istituti scolastici devono chiamarci per fare queste conferenze scolastiche e bisogna denunciare tutto ciò che sembra strano, perché nella nostra esperienza alcuni genitori sottovalutano alcuni scherzi che vengono fatti nei confronti da altri bambini, nei confronti dei propri figli, sottovalutano, però poi col tempo il fenomeno e la situazione degenera e poi, diciamo così, potremmo arrivare che insomma è troppo tardi rispetto a un intervento tempestivo. Quindi è molto importante segnalarlo subito, non sottovalutare assolutamente nulla. Noi siamo a completa disposizione dell'Arma dei Carabinieri su queste tematiche che riguardano i minori, di concerto con l'autorità giudiziaria, e sempre pronta e reattiva, e interviene davvero con tempestività, senza lasciare passare del tempo, come nel caso che ho appena detto. Per cui segnalare e sensibilizzare, educare, chiedendo il nostro aiuto. Grazie capitano, quindi segnalare, essere attenti, vigili e affidarsi alle forze dell'ordine, nella quale avere piena fiducia rispetto al questo, non solo a questo ma in generale a tutti i fenomeni che possono riguardare fattispecie di reato. Da questo punto di vista noi affronteremo nelle prossime puntate anche sempre il tema, come abbiamo fatto oggi, riprendendo questo focus sul bullismo e cyberbullismo, vedendo anche se è possibile farlo direttamente con le scuole, perché l'attività di prevenzione va fatta dando tutti gli strumenti, e di questo oggi ringrazio il capitano dei Carabinieri Maria Grazia Centrone, comandante della Compagnia di Palestrina, per essere stata qui con noi e aver dato ai nostri ascoltatori dei suggerimenti importanti, perché la prevenzione la facciamo anche attraverso il mezzo radiofonico. E da questo punto di vista vorrei concludere, prima di lasciare la parola a Stefano, che ringrazio per il suo supporto tecnico, con uno slogan contro il bullismo. È facile prendersela con i più deboli, e se domani il debole fossi tu? Stefano, io ti lascio la parola per i saluti, e noi ci rivedremo non l'8 dicembre, che è festa, ma il 15, dove parleremo anche della situazione della Valle del Sacco. Ok, bene, allora abbiamo terminato anche questa nona puntata di Agorà in Onda. Abbiamo appunto affrontato nuovamente il bullismo e il cyberbullismo, l'abbiamo fatto con il capitano dei Carabinieri che ha detto denunciate. Io volevo sottolineare solamente una cosa, ci sono persone che quando sentono la parola denuncia si spaventano. Allora segnalate quello che per voi può sembrare anomalo e strano, perché ne vale veramente il futuro, soprattutto dei più piccoli, ok? Esatto. E con questo io vi ringrazio, vi auguro buona giornata, e noi naturalmente ci sentiamo lunedì mattina alle 7, Marco invece il 15 con un'altra puntata di Agorà in Onda. Buongiorno. Buongiorno. Agorà in Onda. Agorà in Onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri.